mi sul lumbar, e al lumbar che gireni bal. Oh, finalmente si è capito come ha fatto Bossi a spendere tutti quei soldi per far studiare il trota. Paga i tasse, paga tu scos, e magna magna magna, magna di Roman, e magna magna magna, magna di Roman. Te vale, te vale, te vale così bot, ma alla fine te sei sempre biot.